Prima parte. I Rock Irlanda, 1775. 1. Avevano portato anche i bambini, perché un giorno lo raccontassero a figli e nipoti. Dopo molti tentativi, l'asta finì per mettersi dritta, il palo della libertà. Un tronco di betulla, pulito e levigato alla buona, un groviglio di corda, un rettangolo di stoffa rossa tagliato da una coperta, la bandiera del Congresso Continentale. Il Comitato di Sicurezza di German Flats approvava il suo primo documento, l'adesione alle rimostranze che l'Assemblea di Albany aveva inviato al Parlamento inglese. Il pastore Bauer ne diede lettura. Il testo si concludeva con l'impegno solenne a stare uniti nei valori della religione, dell'onore, della giustizia e dell'amore per la patria, allo scopo di non essere mai schiavi e difendere la propria libertà a costo della vita. Il vessillo si preparava a salire, salutato da canti e preghiere, quando un rumore di zoccoli interruppe la cerimonia. Una squadra di cavalieri apparve sul sagrato. Brandivano sciabole, fucili e pistole. Qualcuno sparò in aria, mentre la piccola folla cercava riparo tra le case. Restarono sullo spiazzo pochi coraggiosi. Teste impaurite facevano capolino da dietro i muri, negli spiragli delle porte e alle finestre della taverna. Un nome volò da una bocca all'altra in un girotondo di voci. Il nome dell'uomo che aveva fatto fuoco contro il cielo. Sir John Johnson. Intorno a lui, gli uomini del Dipartimento per gli Affari Indiani, i suoi cognati Guy Johnson e Daniel Klaus, subito dietro il capitano John Butler e Cormac MacLeod, schierano dei Johnson e capo dei fittavoli scozzesi che lavoravano la terra del baronetto. Mancava soltanto il vecchio patriarca del clan, Sir William, eroe della guerra contro i francesi, signore della valle del Mohawk, morto l'anno prima. Sir John montava un puro sangue baio dal pelo lucido, fremente sotto la stretta del morso. Si sfilò dal gruppo e prese a cavalcare lungo il perimetro dello spiazzo, mentre fissava i membri del comitato con aria sprezzante, uno dopo l'altro. Guy Johnson portò il cavallo a ridosso di una tettoia e si arrampicò là sopra con difficoltà, per via della stazza. «Forza, siamo qui per discutere!» disse alle case. «È questo che volete, no?» Nessuno fiatava. Sir John diede uno strattone alle briglie. Il cavallo arretrò e ruotò su se stesso, fino a cedere alla volontà del padrone. Allora qualcuno si fece coraggio. Il gruppo che fronteggiava gli uomini a cavallo si infoltì. Guy Johnson lanciò un'occhiata severa. «Indirizzare una petizione al Parlamento è lecito, ma issare una bandiera che non sia quella del re è sedizione. Una cosa vi copre di ridicolo, l'altra manda sulla forca». Ancora silenzio. I membri del comitato evitavano di guardarsi per timore di cogliere un cedimento negli occhi dei compagni. «Volete seguire l'esempio dei bostoniani?» riprese Guy Johnson. «Due fucilate all'esercito del re e si sono montati la testa. Sua maestà possiede la flotta più potente del mondo. È buon amico degli indiani. Controlla tutti i forti dal Canada alla Florida. Credete che i ribelli del Massachusetts otterranno molto di più di un cappio al collo?» Fece una pausa, quasi volesse sentire il sangue ribollire nelle vene dei tedeschi. «La famiglia Johnson», proseguì calmo, «possiede terra e commerci più di tutti voi messi assieme. Saremmo i primi a stare dalla vostra parte se davvero Sua Maestà minacciasse il diritto di fare affari». Una voce risuonò forte. «I vostri affari non li minaccia di certo. Voi siete ricco e ammanicato. Le tasse del re strozzano noi altri». Un coro d'assensi accolse quelle parole. Dalla cima della tettoia, Guy Johnson individuò Paul Reinhard, il bottaio, una testa calda. Lo stallone di Sir John scrollò il capo e sbuffò nervoso, rimediando un altro strattone. Il frustino del baronetto colpì il cuoio dello stivale. «Le tasse servono a mantenere l'esercito», ribatté Guy Johnson. «L'esercito mantiene l'ordine nella colonia». «L'esercito serve a voi altri per continuare a tenerci sotto», sbottò Reinhard. Gli animi si accesero. Qualcuno dei cavalieri alzò distinto le armi, ma un cenno di Sir John li trattenne. «Non ancora», sibilò il baronetto. Guy Johnson, rosso in volto, strillò dall'alto. «Quando i francesi e i loro indiani minacciavano le vostre terre, l'esercito lo chiedevate a gran voce. La pace vi ha reso arroganti e stupidi al punto da desiderare un'altra guerra. Fate molta attenzione. Ai morti la libertà non serve. Ci state minacciando? Gridò Reinhard. Tornatene in Irlanda, dai tuoi amici papisti! Urlò qualcuno. Un sasso, scagliato verso Guy Johnson, lo mancò di poco. Una smorfia di compiaciuto disprezzo segnò la faccia di Sir John. Adesso! I cavalli mossero in avanti, il comitato di sicurezza si sciolse seduta stante, gli uomini corsero in tutte le direzioni. Il cavallo di John Butler travolse Reinhard e lo fece rotolare nel fango. Il bottaio si rialzò, cercò scampo verso la chiesa, ma Sir John gli sbarrò il passo. Il baronetto lo frustò con quanta forza aveva. Reinhard si accucciò a terra, le mani sulla faccia. Tra le dita vide MacLeod sguainare la sciabola e partire al galoppo. Strisciò via, invocando la misericordia di Dio. Quando ricevette il colpo di piatto sul fondoschiena urlò forte, tra le risate roche dei cavalieri. Mentre Reinhard si scopriva ancora vivo, gli uomini del dipartimento si radunarono al centro dello spiazzo. Guy Johnson rimontò in sella e li raggiunse. Un leggero colpo di speroni e Sir John fu sotto il palo della libertà. Parlò in modo che tutti lo sentissero, dovunque fossero rintanati. Ascoltate bene. Chiunque in questa contea voglia sfidare l'autorità del re dovrà vedersela con la mia famiglia e con il dipartimento indiano. I suoi occhi maligni parvero scovare gli abitanti uno a uno oltre le finestre buie. Lo giuro sul nome di mio padre, Sir William Johnson. Sfilò un piede dalla staffa. Dopo un paio di calci, il palo rovinò nel fango.